100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Ieri l'Agenzia delle Entrate ci ha fatto sapere che nel 2014 il fisco ha recuperato 14,2 miliardi di euro dalla lotta all'evasione. Cifra importante, in crescita rispetto al 2013, ma questa è la domanda. Si tratta anche di un buon risultato? È un risultato che consente in qualche modo di intaccare lo zoccolo duro dell'evasione fiscale in Italia? In realtà questo è il problema e anche il dubbio che si pone ogni volta che leggiamo i dati sui risultati della lotta all'evasione. E inevitabilmente, se questi risultati vengono valutati rispetto alle dimensioni del fenomeno evasione, allora il giudizio cambia e 14,2 miliardi, che pure, lo ripetiamo, sono una cifra importante, finiscono per rappresentare solo una goccia nel mare dell'illegalità fiscale. E gli incassi che il fisco attribuisce alla sua azione di contrasto all'evasione riescono solo minimamente a scalfire i contorni dell'evasione fiscale stessa. Peraltro, a ben guardare, oltre 6 di questi 14 miliardi di incassi nel 2014 non derivano proprio dall'attività di lotta all'evasione, ma da quelle verifiche automatizzate sui calcoli delle dichiarazioni fiscali, che insomma vera lotta all'evasione non sono, e anzi la vera lotta all'evasione avrebbe portato al fisco nel 2014 solo 8 miliardi di euro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Per fortuna un accordo tra l'Europa e la Grecia è stato raggiunto. È un'intesa tutta politica, però di quelle scritte affinché ciascuno dei contraenti possa leggere ciò che più gli aggrada. La Grecia di Tsipras annuncia a gran voce di avere avuto riconosciuta la titolarità a gestire le riforme e quindi può dare in pasto a un'opinione pubblica esasperata e sfibrata da una crisi devastante l'annuncio che Atene si è affrancata finalmente dalla famigerata Troica, cioè da BCE, Unione Europea e Fondo Monetario. Dall'altra parte la Germania, che ancora continua a dare le carte in Europa, nonostante i vertici dove al tavolo siedono altri leader che comunque restano comprimari, annuncia con freddezza che si è semplicemente riconosciuta la validità del vecchio accordo del 20 febbraio, in base al quale il memorandum sulle riforme è stato prorogato fino al giugno, in cambio dello sblocco della tranche di aiuti di 7,2 miliardi. Nel frattempo però dalla Grecia i capitali scappano, 300 milioni di euro spariti solo mercoledì al culmine della crisi, che si aggiungono ormai ai 16 miliardi e più svaporati fra dicembre e gennaio. La BCE apre i cordoni della borsa con molta parsimonia e ha posto un limite a 69,8 miliardi per i prestiti di emergenza concedibili al sistema greco. Le banche di Atene, d'altro canto, sono indebitate presso l'eurosistema per oltre 104 miliardi, che ormai è una somma pari al 57% del PIL nazionale. L'esposizione monstre verso l'Europa ha insieme la forza e la debolezza della politica di Tsipras, che non a caso la Commissione Juncker ha stanziato ieri 2 miliardi di fondi in aggiunta da destinare alla Grecia proprio per misure di sviluppo e di rilancio dell'economia. Però, così come hanno fatto Spagna, Portogallo, Irlanda e anche Italia, pure Atene deve fare le riforme. È l'unico modo per salvare il paese e consolidare davvero l'idea dell'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.